Il problema del male. Scrivere non è il mio forte, anche se lo faccio di sovente. E è sempre una grande fatica esprimere per iscritto ciò che ho nel cuore, ma il bisogno di farlo è più forte di me. Tengo presente inoltre la calda esortazione del fratello René Pachet, oraco al Signore, il quale, dopo aver letto uno scritto che gli avevo dato perché lo esaminasse, mi esortò a continuare vedendo in me un certo scoraggiamento. Perché dico questo? Perché questo scritto non sembri uno dei tanti di chi, avendo scioltezza nello scrivere, affronta il problema della sofferenza e dell'ingiustizia per cercare di riempire qualche pagina con un problema che coinvolge tutti. Fiumi d'inchiostro sono stati versati intorno al problema del male e certamente non pretendo di dire qualcosa di nuovo. Ciò che mi spinge a scrivere è la convinzione che noi credenti abbiamo bisogno di non dimenticare almeno due cose intorno a questo argomento: la sovranità di Dio e il giusto atteggiamento del cristiano. Senza timori di essere contraddetti, possiamo affermare che tutto il Nuovo Testamento esorta il cristiano ad aspettare il più grande avvenimento che possa succedere nella sua vita, il ritorno di Cristo. Questa verità col passare del tempo diventa per la Chiesa del XX secolo sempre più reale e attesa. Però, assieme a questa verità, ce n'è un'altra sulla quale vorrei che ci soffermassimo. Leggiamo tre brani della Scrittura. Oh, ma quando il figliuol dell'uomo verrà, troverà egli la fede sulla terra? 1. Oh, or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, irreligiosi, senza affezione naturale, mancatori di fede, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, temerari, gonfi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi le forme della pietà ma avendone rinnegata la potenza. 2. E perché l'iniquità sarà moltiplicata, la carità dei più si raffredderà. 3. Questa situazione sarà mondiale e precederà il ritorno di Cristo. Quindi attendere il ritorno di Cristo implica attendere tempi difficili nei quali gli uomini esprimeranno liberamente la loro natura malvagia. E ciò renderà la convivenza molto difficile, caratterizzata soprattutto dalla mancanza di amore e di fede nelle rivelazioni di Dio. Il cristiano negli ultimi tempi dovrà inoltre soffrire ingiustamente a causa dei genitori, fratelli, parenti, amici, 4. E toccherà con mano quanto sia forte la seduzione della menzogna. 5. La sovranità di Dio. La prima reazione del credente di fronte allo spettacolo del male, come per i santi del Vecchio Testamento, è quella di chiedersi: come è possibile che Dio sappia ogni cosa? Che vi sia conoscenza nell'Altissimo? 6. Perché tolleri lo spettacolo della perversità? 7. Tu che hai gli occhi troppo puri per sopportare la vista del male, perché guardi i perfidi e taci quando il malvagio divora l'uomo più giusto di lui? 8. Non penso che chi non si è mai posto simili domande sia più spirituale di chi se le pone. La sofferenza, l'ingiustizia non possono non far vibrare un cuore reso sensibile dalla grazia divina. Il fatto è che dal momento che Dio non si oppone al male, 9, anzi lo sopporta, lo tollera, il cuore dell'uomo pensa, come è scritto nel Salmo 10, che Dio non giusti, è che egli dimentichi, che non si interessi delle azioni dell'uomo e che perciò si possa continuare liberamente a peccare perché tanto non si sarà mai smossi. Conclusione. Siccome la sentenza contro una mala azione non si esegue prontamente, il cuore dei figli degli uomini è pieno della voglia di far del male. 10. Il credente, pur ponendosi delle legittime domande, non sarà mai smosso da questa granitica verità. Dio è re e sovrano assoluto di tutto quello che succede in questo mondo. Una sola frase di Giobbe basta per affermare e illuminare questa verità. Colui che sbaglia e colui che fa sbagliare dipendono tutti da Dio. 11. Quindi non solo chi sbaglia dipende da Dio, ma anche colui che per la sua posizione fa sbagliare o peccare gli altri. Prendiamo un esempio nel libro di Ezechiele 12. Alcuni anziani andarono da Ezechiele per consultare l'Eterno. L'Eterno risponde al suo servitore che non si sarebbe lasciato consultare da loro perché le loro vie erano malvagie, quindi fece dir loro dal profeta ciò che meritavano. Poi l'Eterno continuò: e se il profeta si lascia sedurre, cioè non pronuncia le parole che io voglio, io l'Eterno avrò sedotto quel profeta. Non c'è, è molto da commentare. La cosa più difficile è accettare che il male e il bene procedono da Dio. 13. Accettare che Nabucodonosor riceve come salario da parte di Dio il paese di Egitto perché, avendo vinto Tiro, aveva lavorato per lui. E questo vuol dire guerra, morte e sofferenza. E non solo, ma il male, secondo Isaia, procede dalla sapienza di Dio. 15. Come è scritto, egli è savio. Fa venire il male. Questa non è una traduzione sbagliata, perché altre quattro traduzioni che ho consultato confermano lo stesso concetto. Paolo poi afferma che le afflizioni che Dio permette sono un atto della sua giustizia. 16. Possiamo vedere riuniti questi due ultimi aspetti in 2 Samuele, al capitolo 24. Dio, dice la scrittura, si accese d'ira contro Israele ed incitò Davide, per mezzo di Satana, a peccare. In tal modo 70.000 persone morirono colpite dalla peste. Nella sua infinita sapienza e giustizia Dio ha pensato di agire in questa determinata maniera. Chi potrà lamentarsi? Il fatto che il male sia sotto il controllo della volontà di Dio, che esso sia il frutto della sua sapienza e della sua giustizia, dà la possibilità al credente di prendere di fronte ad esso il giusto atteggiamento, l'atteggiamento del credente di fronte al male. La parola di Dio, più che insegnarci che cosa bisogna fare di fronte al male, si preoccupa di esortarci ad avere una giusta disposizione interiore. E questo, a mio avviso, deve essere un insegnamento per i predicatori e i conduttori di chiese, i quali non si devono preoccupare tanto di stabilire norme e regole che vadano bene per tutti, ma di insegnare che chi è condotto dallo Spirito non è vincolato da nessuna legge e che quello che può andare bene per uno può essere sbagliato per un altro. Ma vediamo ora le varie esortazioni. Levitico 19:18, non vendicarsi. O non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il prossimo, tuo come te stesso. Io sono l'Eterno. Dopo quello che abbiamo detto, vendicarsi sarebbe il più grande sbaglio che il credente possa fare. Se mi vendico di fronte ad una ingiustizia, dimostro di non ritenere Dio sovrano del mondo e tantomeno nella mia vita. Mi ribello di fronte al male che Dio, nella sua infinita sapienza, ha mandato nella mia vita, o per correggermi per qualcosa che non va, o perché il suo nome sia glorificato. Vendicarsi vuol dire prendere il posto di Dio, al quale appartengono la vendetta e la retribuzione. 17. Non sempre la vendetta è chiaramente identificabile. Per esempio, Jehu sterminò, senza peccare, la casa di Acab, perché lo fece per volontà di Dio. Invece Job pagò con la propria vita l'uccisione di due uomini perché aveva agito per vendetta. Inoltre la vendetta non si manifesta necessariamente con una azione. Ne esiste un tipo più sottile, che è quello della passività, del non fare. La legge diceva: se incontri il bue del tuo nemico o il suo asino smarrito, non mancare di ricondurglielo. Se vedi l'asino di colui che ti odia steso a terra sotto il carico, guardati bene dall'abbandonarlo, ma aiuta il suo padrone a scaricarlo. In questi casi la persona che voleva vendicarsi aveva solo bisogno di far finta di non vedere. Raggiungeva il suo scopo salvando la reputazione. Anche l'Egitto, al tempo del profeta Ezechiele, si comportò nella stessa maniera nei confronti di Israele. Ma fu severamente condannato dall'Eterno a restare per sempre un'umile nazione. 21. Lamentazioni 3:38-39, non rammaricarsi. O il male e il bene non procedono forse dalla bocca dell'Altissimo? Perché si rammarica la creatura vivente? L'uomo vive malgrado i suoi peccati. Il tema del libro delle Lamentazioni è, come dice il titolo, un lamento per i guai che sono caduti sulla nazione giudaica. Tra queste espressioni di dolore emerge una considerazione divina. Il male e il bene non procedono essi dalla bocca dell'Altissimo? Perché il vivente si rammaricherebbe? ognuno si rammarichi del proprio peccato. L'esortazione di non rammaricarsi di fronte al male viene data perché in precedenza si è constatata la sovranità di Dio. Rammaricarsi non è un peccato grossolano come possono essere l'adulterio o l'omicidio, ma provoca inevitabilmente la mancanza di quella gioia cristiana che dovrebbe caratterizzare il credente. Il modo di parlare e di agire sarà influenzato da questo sentimento. Se Paolo e Sila si fossero rammaricati per le battiture e il trattamento ricevuti a Filippi, non avrebbero cantato nell'oscura prigione e non avrebbero portato alla salvezza il carceriere e la sua famiglia. Se Giuseppe, figlio di Giacobbe, si fosse rammaricato perché i suoi fratelli lo avevano venduto, non avrebbe detto loro: «Ma ora non vi contristate, non vi dolga di avermi venduto perché io fossi menato qua, poiché Dio mi ha mandato innanzi a voi per conservarvi in vita. Non siete dunque voi che m'avete mandato qua, ma è Dio». Cosa può fare e dire un'anima che conosce il Signore? I fratelli non avevano avuto compassione delle sue lacrime e delle sue grida, ma egli li confortò, alleviando il peso della loro coscienza, dicendo che era stato Dio a volere tutto questo. E più tardi, dopo la morte del padre, i fratelli andarono da lui temendo che Giuseppe volesse rendere il male che aveva ricevuto, ma egli li confortò ancora dicendo: «Non temete. Poiché sono io forse al posto di Dio, voi avete pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene». 22. E che dire di Mosè che più di una volta intercedette a favore di Israele presso Dio nonostante che questo avesse fatto delle dure rimostranze nei suoi confronti? Tutti gli uomini di Dio non portarono mai rancore verso coloro dai quali ricevevano del male, benché a volte dichiarassero apertamente il peccato. Ha ragione quindi, lo Spirito Santo ci dice, per mezzo di Paolo, sia tolta via da voi ogni amarezza. 23. Proverbi 24.19 che non irritarsi o non ti irritare a motivo di chi fa il male e non portare invidia agli empi. Per quello che posso vedere nella mia natura, irritarsi di fronte ad un'ingiustizia è la cosa più spontanea. La vista del male provoca una certa reazione nel credente, il quale in fondo può illudersi di essere mosso da un santo zelo per Dio, identificandosi senza rendersene del tutto conto con Gesù che cacciò i cambiamonete dal Tempio. Ma la Scrittura parla chiaro, non bisogna irritarsi. Ancora una volta Dio ci comanda ad avere lo spirito sereno più che insegnarci che cosa dobbiamo fare. Vediamo ancora un esempio. Davide un giorno dovette fuggire perché Absalom gli aveva usurpato il trono. Mentre fuggiva, un uomo di nome Shimei lo malediva, per cui Abishai, un suo valoroso guerriero, chiese a Davide il benestare di andarlo ad uccidere. Ma Davide rispose: «Ecco il mio figliolo, uscito dalle mie viscere, cerca di togliermi la vita. Quanto più lo può fare ora questo beniaminita? Lasciate che i maledica, giacché gliel'ha ordinato l'Eterno. E chi oserà dire perché fai così?» 24. Mi sono sempre chiesto come mi sarei comportato in una situazione del genere. Avere un animo sereno di fronte a colui che ti maledice, che ti schermisce, che ti fa del male, è una capacità divina. I primi discepoli furono perseguitati e presero l'occasione di predicare l'Evangelo. I destinatari della lettera agli ebrei accettarono con allegrezza la ruberia dei loro beni. 25. Penso che questi siano elementi sufficienti per invitare i nostri cuori ad essere sempre sereni, tanto più che, come dice la Scrittura, alla fine non ci è avvenire per il malvagio. Cosa bisogna fare? La Bibbia non è certamente solo un codice di divieti. Se di fronte al male non bisogna vendicarsi, non bisogna rammaricarsi, non bisogna irritarsi, Dio vuole da noi un atteggiamento positivo perché è camminando per lo Spirito che non si adempiono i desideri della carne. Questa parte quindi è degna di maggiore attenzione. Ed ecco ciò che Dio vuole che noi facciamo. Salmo 1:09-1-4 pregare o al direttore del coro. Salmo di Davide. Dio della mia lode, non tacere, perché la bocca dell'empio e la bocca del disonesto si sono aperte contro di me, ma hanno parlato con lingua bugiarda. Mi hanno assalito con parole d'odio e mi hanno fatto guerra senza motivo. In cambio della mia amicizia, mi accusano, e io non faccio che pregare. Il salmista spande la sua anima davanti a Dio dicendogli che l'empio lo ha assediato con parole di odio e che gli hanno fatto guerra senza ragione. Cosa fare in una situazione simile? Cosa fare quando qualcuno ricambia con il male il bene che gli fai? Il salmista pregava, ed è certamente la prima e grande cosa da fare. Pregare Dio, cioè far noto a Lui come stanno le cose, poi pregare per colui che ci fa del male. Con questo sistema il cuore del credente viene liberato da ogni eventuale sentimento sbagliato. È difficile odiare o provare risentimento per qualcuno per il quale si prega. E chi ne ha fatto l'esperienza può dire che non solo è difficile, ma impossibile. Gesù, l'uomo di preghiera, prega per coloro che lo inchiodavano in croce. Stefano, il primo martire, seguendo le sue orme, pregò per coloro che lo lapidavano. Nessuna amarezza, nessun risentimento. L'amore di Dio è più forte del peccato. Levitico 19, 17-18. Riprendilo. O non odierai tuo fratello nel tuo cuore. Rimprovera pure il tuo prossimo, ma non ti caricare di un peccato a causa sua. Non ti vendicherai e non serverai rancore contro i figli del tuo popolo. Ma amerai il prossimo tuo come te stesso. Io sono l'Eterno. La scrittura è meravigliosamente sobria, perché non insegna al credente di vivere in un clima estatico, ma lo chiama ad essere pratico e riprendere, se questo è opportuno, colui che fa il male. Si deve riprendere il prossimo per non odiare nel cuore e quindi commettere peccato. Romani 1, 2:21, vinci il male col bene. O non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. L'ordine di Paolo di vincere il male con il bene è presa certamente dal concetto espresso nei Proverbi in questi termini: se il tuo nemico ha fame, dagli del pane da mangiare; se ha sete, dagli dell'acqua da bere. 26. Quando si tratta di mettere in pratica questa verità, il nostro amore viene verificato, possiamo scoprire se il nostro cuore è libero da ogni amarezza. Noi cristiani del XX secolo abbiamo bisogno di convincerci sempre più che se è stato l'amore a portare Gesù sulla croce, è altresì un minuto amore che deve spingerci a perdonare, a dimenticare, a fare del bene al prossimo. L'amore è l'unica vera potenza del cristiano per vincere il male in questo mondo. Ricordo quell'aguzzino che diceva ad un cristiano mentre lo bastonava: «Io sono onnipotente, come supponi che sia il tuo Dio? Io posso ucciderti». Ma il cristiano rispose: «Il potere è tutto dalla mia parte. Io posso amarti mentre tu mi torturi a morte». A questo punto trovo molto appropriate le parole di Richard Wurmbrand, il quale disse che a volte dimentichiamo la nozione esatta di potenza. La potenza per noi significa il potere di schiacciare, di sottomettere, di sopprimere, di punire. Esiste un'altra potenza, è la potenza dell'amore, la potenza di essere buoni nei riguardi di chi fa il male. Quando pensiamo all'energia, la consideriamo cinetica, cioè la qualità che fa muovere tutte le cose. Esiste peraltro un colossale serbatoio di energia potenziale, di energia in riposo. Esiste il potere della tranquillità, della serenità. E tutto questo è possibile quando dimentichi di noi stessi, siamo tesi a fare la volontà di Dio. Ebrei 1:2-3, considerare Gesù. O anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Della gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona, da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. L'autore della lettera agli Ebrei ci esorta a guardare a Gesù per non essere scoraggiati, e penso che questa sia un'importante esortazione. Il male che attorna il credente esercita una pressione negativa sulla sua volontà. Si sono scoraggiati uomini dalla robusta fibra come Elia e Davide, quindi tutto è possibile. Ma un continuo esercizio a considerare ciò che Gesù ha sofferto, ciò che ha lasciato per amor nostro, ci eviterà esperienze dolorose. Se per la gioia che gli era posta innanzi, egli prese su di sé i nostri peccati, quanto più noi dobbiamo sopportare ogni cosa per amor di lui e degli eletti. La mia preghiera è che possiamo ritenere nel nostro cuore queste considerazioni. Ci sono cose che possiamo leggere che ci interessano relativamente, ma una cosa è certa. Come ha promesso il Signore, stiamo andando incontro a tempi duri e difficili. Abbiamo e avremo sempre più a che fare con il male, e se noi cristiani non saremo adeguatamente preparati ed esercitati ad affrontare nel modo giusto e santo, ci troveremo inaspettatamente a fare e dire cose che non avremmo voluto. Che Dio ci dia una santa e giusta disposizione di fronte al male in ogni momento, che possiamo tenere sempre presente la via di Dio per eccellenza, l'amore in verità. 1 Luca 18, 18, 2. 2 Timoteo 3, 1 e 5. 3 Matteo mezzanotte e 12. 4 Luca 21 e 16. 5 Luca 21 e 16. 6 Salmo 73, 11. 7 Abacuc 1, 3 a 8, 8. Abacuc 3 e 13. 9 Giacomo 4, 6. 10 Ecclesiaste 11. Giobbe mezzogiorno e 16. 12 Ezechiele 14, 1, 11. 13 Lamentazioni. 15 Isaia 31, 1 a 2. 16 2 Tessalonicesi 1, 6, 17. Ebrei 10 e mezzo. 18 2 Cronache 22, 7, 19. Ire 2 e 32. 20 Enesi 4 a 5, 21. Ezechiele capitolo 29 e 22. 22 Genesi capitolo 45, 50, 23. Efesini 4 e 31, 24. 2 Samuele capitolo 16, 25, Ebrei 10, 34, 26.